Radio 24 presenta Il riposo del guerriero con Stefano Gallarini. Le 10:10 minuti, buona domenica da Stefano Gallarini, comincia Il riposo del guerriero. Oggi parleremo di cinema e non sarò da solo, ovviamente ospite con me c'è Arturo Bracchetti, che è qui di fronte e che possiamo anche salutare subito. Ciao ciao. Di solito lo salutiamo, ma ti saluto adesso. È alle prese con le risposte, fai tutto quello che devi fare, hai 3 minuti per fare per i cavoli tuoi. Esatto, poi possiamo parlare noi. Oggi giocheremo anche come sempre, per cui alle 11:30 il mistero in 24 minuti, per voi la possibilità di portarvi a casa fino a 1000 euro da spendere in libri, CD e DVD, se riuscirete a risolvere il mistero, che come sempre può essere o un personaggio oppure una notizia della settimana. Per prenotarvi, fatelo se volete subito, il numero è sempre il nostro numero verde 800 24 00 24. Vi do anche il numero per gli SMS, per il semplice fatto che vi serviranno per scrivere, fare domande, se ne avete, curiosità. Oggi parleremo di cinema e lo racconteremo da tanti punti di vista, magari anche il vostro, perché avete questo sogno, perché no, oppure in qualche modo rappresenta la vostra vita il cinema, o ve lo detestate. Non ho mai conosciuto nessuno che possa detestare il cinema, però magari esiste. Il numero per gli SMS 349 238 6666. Che ho sempre visto senza te, la mascella scolpita di un rude cowboy che fuma. Un marinaio bruciato dal sale e dalla sfortuna. Ho cominciato con Battisti per raccontare il cinema, perché in questa canzone Lucio Battisti, parole rigorosamente di Mogol, dice: tu mi fai sentire l'interprete di un film che ho visto tante volte, perché forse è vero che tante volte ci siamo così rivisti in vari attori, o meglio nei personaggi che interpretavano. Buongiorno Arturo, ciao. Buongiorno. Ecco, Ari, buongiorno. Sì. E non so quanto Arturo possa essere ripreso da una lunga tournée. Sono appena uscito dalla tomba, quindi. Ecco, no, diciamo, in qualche modo... No, perché sai che vado in giro con il mantello a cilindro, sì, il cilindro, il guantello, la gente mi becca un po' per un becca morto, mi scambia un po' per un vampiro appena uscito dalla tomba, quindi in effetti sono un vampiro fuori tempo, fuori orario. Sei appena tornato da Parigi, sì, dalle Folies Bergères, yes, e dove la tournée, a parte che si è allungata, avrebbe dovuto durare tot, invece sì, poi è andata avanti. Invece di un mese siamo state 7 settimane, aggiungendo spettacolo di pomeriggio, perché proprio c'è stata una follia pazzesca. Abbiamo fatto un successo francese, non un successo dicendato, è andato bene, no, abbiamo fatto il successo francese, quindi mi devo aspettare un controllo delle tasse. Arturo Bracchetti, perché sai che i colleghi francesi no, si vendicano quando arriva un italiano lì e fa il successo dell'anno, l'anno dopo mi arriva il controllo delle tasse francesi, puntuale. Ma funziona così, quindi? Amano molto la delazione i francesi, scrivere la lettera. Secondo me quello lì non paga tutto, e arriva la signorina, anzi la signora divorziata, bella incazzata perché suo marito l'ha lasciata, e ti fa il controllo delle tasse. Però arrivano i premi anche dalla Francia, scusa. Sì, vabbè, i premi, ritorno, la tartatin e tutte le cose belle, per carità. Arturo Bracchetti, Fesson Cinema? Fesson Cinema. Che vuol dire? Vuol dire fai il tuo cinema. Fai il suo cinema, ma è un gioco di parole, perché forse si usa anche da noi al nord quando diciamo ai bambini smettere di fare il tuo cinema, no? Si dice al nord. Okay. Non hai sentito qui a Milano? Come no? Certo. Anche smettere a Torino di fare il cinema. Ecco, e vuol dire smettere di fare cretinetti, eccetera, eccetera. E in francese uguale, quindi il titolo era quello. Allora, poi gli ascoltatori raccontiamo cosa succede, perché dobbiamo comunque partire da un punto, e il punto è proprio questo. È il cinema che ti appassiona e che in qualche modo è entrato nel tuo teatro. Sì, io devo dire che al cinema ci sono entrato proprio in maniera scioccante, perché la prima volta che sono andato al cinema, mio papà, mi ricordo, aveva ricevuto 2 biglietti omaggio dalla Fiat dove lavorava e mi portò al cinema, avevo 5 anni, solo che erano 2 biglietti per vedere I Dannati di Varsavia, che è un film di nazisti tremendo, e quindi io a 5 anni mi ricordo come se fosse ieri di aver visto sto film con questi poveretti nelle fogne di Varsavia che cercavano di scappare dai nazisti. nazisti con le mani che spuntavano dalle grate. Insomma, guarda, un'angoscia pazzesca. Dopo un quarto d'ora siamo usciti, però ho sognato di nazisti fino a 30 anni. Beh, questo per forza, certo. Meno male mi sono rifatto dopo con Mary Poppins. Ecco, dopo quanto tempo è passato fra il primo film e il secondo? Un anno, due, perché guarda che quel, ti parlo del 1960 qualcosa. Tre, giù di lì, si andava al cinema una volta all'anno. Noi poveri proletari della grigia Torino. Io avevo un cinema davanti a casa, lo vedevo come se fosse Las Vegas. Ma no? Quando i cinema avevano ancora la prima, la seconda e forse anche la terza, no? Perché si stava sempre, sì, i biglietti erano differenziati. Questo non te lo ricordo, non lo ricordo io. Ah, sì? Sì. Ma dai. Sì, si stava dietro, cioè, davanti alla terza, e poi io scavalcavo. Non perché... c'erano i bagni? No, eri più indietro, perché più avanti eri e più costava. Ma dai. Cioè la prima fila che non vedi un tubo in qualche modo sì, però funzionava così. Beh. Quali sono i tuoi film? I tuoi dove ti riconosci? Beh, nei protagonisti, a parte tutti quelli che fai. Non stavo per dire Mary Poppins, no. Poi mi hai fregato, perché non è che mi riconosco in Mary Poppins. Però siccome il secondo film che ho visto è stato Mary Poppins, mi ha riconciliato col cinema. E ancora adesso mi frega Mary Poppins, la bastarda. Perché quando c'è in televisione Mary Poppins, dice, Mary Poppins, lo guardo due minuti. Poi sto lì, lo guardo tutto il film e piango alla fine. Ecco, credo che funzioni perché ha molto di magico. Mentre pensi invece appunto agli attori, dove in qualche modo... dove ti ci rivedi, più che altro per quello che interpretano, gli aggiornamenti sul traffico, un qualche minuto di ritardo, e poi torniamo a parlare di cinema con Arturo Bracchetti. Il riposo del guerriero. Dicevo Mary Poppins perché è magico, è un film magico in qualche modo. No, non sei tu, sei a posto. Ah, ecco, sì. Dico, Mary Poppins, sì, che noi soprannominiamo, perché io faccio Mary Poppins nello spettacolo. Anche, sì. Ecco. Però si chiama con la M. Cioè, quanti personaggi sono nello spettacolo? Vabbè, 80. 80, sì, con tanta tutti, perché è una specie di follia sul mondo del cinema e mi dà pretesto di fare i 70-80 personaggi più conosciuti del cinema. Ecco, i personaggi, i film che rappresenti e che racconti nel tuo spettacolo sono nati perché prima sei stato affascinato dal film, hai deciso di interpretarlo in qualche modo, cioè di raccontarlo con il personaggio, o il contrario, cioè i personaggi ti hanno affascinato e quindi cos'è arrivato prima? Avevo dovuto fare un compromesso tra quel che conosce la gente e quel che uno vuole, sì, fare, perché uno dice, ah cavolo, mi piacerebbe fare, capito, Goodbye Mr. Lawrence, e uno dice, ma chi è? Cioè, sì, ce lo conosciamo in 10. Allora invece abbiamo detto, facciamo un pezzo sull'orrore, bene, quali sono i personaggi, okay, più conosciuti e quelli che, oppure che ci fanno ridere, perché la Linda di l'esorcista non solo è conosciutissima, però cavolo, possiamo fare la testa che gira e vomita e qui e là eccetera eccetera, oppure allora se ti metti a dire i personaggi dell'orrore più conosciuti, finisci sicuramente a fare il vampiro, certo, il beccamorto, il prete, quello della motosega, e insomma finisci a far qui i personaggi lì. Ecco, Hollywood uguale nello spettacolo, siccome poi la tournée adesso prosegue in Italia, va, sì, avanti per poi andare nelle grandi città, sì, adesso facciamo un mese e mezzo di tournée italiana, sì, poi un mese e mezzo di tournée francese, una settimana in Svizzera, poi ritorniamo a Parigi a giugno. Ecco, le differenze dei film esistono tra Francia e Italia oppure no? Finora andiamo bene, nel senso che i riferimenti dello spettacolo sono abbastanza mitteleuropei, diciamo. Potrei fare con questo spettacolo una tournée francese, tedesco, italiana, anche inglese. Dovessimo andare in America, lì bisognerà forse contaminarci, magari togliere il pezzo di Fellini, mettere una roba che ne so, Franz Capra, Spielberg eccetera. Il problema è stato quando con l'altro spettacolo siamo andati in Cina. E allora sai, uno dice, le referenze del cinema in cinema. Lo sai che in Cina Topolino, facevo un Topolino per 20 secondi, non lo conoscono, perché è stato vietato per 60 anni. Ah. Topolino rappresentava Walt Disney, cioè il capitalismo americano. Certo, certo. Quindi, oppure Darth Vader di Guerre Stellari, sì, non lo conoscevano. Invece Casablanca sì. Oppure Tutti insieme appassionatamente, tutti, sì, i film d'amore fondamentalmente, sì, quella lì dice che cavolo gliene fregava delle suore là in Tirolo, invece sì, quello l'hanno visto, capito? i cinesi. Quindi gli chiedevano: ma potresti mettere qualche personaggio magari del nostro cinema? Ma chi li conosce? Cioè, in Corea, siamo andati in Corea, ma hanno mandato i DVD dei film coreani, dei più grandi film coreani, che sono degli ultimi 15 anni, eh? Non è come da noi che dice i grandi classici italiani, 1940, eccetera, eccetera, o anche prima. No, lì i grandi classici cinema coreano degli ultimi 15 anni. Pescatore su una barca che si innamora di una, poi... Ma la roba, tira una freccia, questa perde la verginità. Dovresti passare, non ho capito, sai? Dovresti passare una sorta di film bollywoodiani anche. Perché, pure quello, perché è bellissimo. Perché le storie però. Di Bollywood però sono più o meno tutte uguali, no? È sempre lei si innamora di lui, le due famiglie non vogliono, perché spesso i matrimoni sono combinati, e quindi lì succede qualcosa. Un po' di balletto. Perché alla, esatto, e poi alla fine si canta e l'amore. Però credo che possano funzionare. Potremmo fare una bella parodia, sì, quello. Sì, sì. Pensaci per ci la prossima volta. Ecco. Allora, dicevo, gli attori in qua, gli attori, le, non l'attore in sé, ma i ruoli interpretati, dove in qualche modo ti sei rispecchiato di più, che ti rappresentano, se beh, esistono chiaramente, non so. Quando faccio il pezzo su Fellini mi piace molto, sì, perché è un autore di cinema, un monumento ormai, perché da noi è quasi, non dico dimenticato, ma dicevo Fellini, come dicesse, capito, il Tintoretto, una roba che sta in mezzo all'altro secolo, chissà dove, chissà cosa ha fatto. Invece in Francia il ricordo di Fellini è molto più forte, almeno tra la gente che come va. Come mai tra... secondo te? È perché come è esotico, ha marcato molto di più, mentre noi forse dobbiamo ricordarci di tanti nostri italiani, magari dell'80% anche mediocri. Lì si ricorda di due italiani, tre, e sono quelli più importanti, veramente. Tu parli di attori, ti dicono Mastroianni, Tognazzi, Fellini, Scola, insomma, quei nomi, Visconti, fanno quei nomi lì, che sono poi i nostri, per carità, grandi, grandi classici italiani, ecco. Dovresti anche tu ricordarti un film di un francese, tu cominci a dire Jean Gabin e Amélie Poulain, cioè vieni fuori anche tu con pochi nomi. Assolutamente, ecco. Sì, certo. Perché secondo te si ricorda più il cinema del passato che quello di oggi? In fondo faccio un esempio, Giù al Nord, un film di grande successo in Francia, che poi è stato replicato in Italia, riscritto e bene, con bene, buon successo, carico. Esatto, per cui voglio dire, c'è anche un certo cinema nuovo, e adesso vi dico questo perché è quello più recente, eclatante, racconta una storia che conoscono anche gli italiani. E voglio dire, però, perché si continua, secondo te, a ricordare il cinema del passato e si sa sempre molto poco di quello del presente, invece? Credo che purtroppo del cinema del presente, i cinema del presente sono tutti fatti a low budget, cioè sono tutti magari dei registi di grande talento che però non hanno possibilità produttive, e quindi fanno dei film contemporanei in cui non ci siano grandi set o grandi mezzi tu produttivi. Dici, quindi ci sono le idee ma non ci, sì, sono i mezzi. Secondo me sì. Ci, secondo, sono gli attori? Parliamo dell'Italia, se togliamo quelle che vanno a fare le audizioni, no, ci sono nelle ville private, gli attori ci sono, ma purtroppo vengono considerati meno di quelli che poi magari fanno introdurre. Tu dici che in Italia è davvero ancora così? È un po' così, cioè, vedo una selezione più seria, soprattutto in Inghilterra. All'estero. In Inghilterra, sì, dove hanno degli attori fantastici. Tu sei bruttina però molto brava, probabilmente la strada la farai. Invece qui la bruttina molto brava, come, che ne so, per carità, la Finocchiaro, che va bene, però è un'attrice straordinaria, ma adesso tutti, che ha una certa età, tu dici: oh, che brava la Finocchiaro, ma era brava anche 20 anni fa, anzi era bravissima. E quindi è molto più dura, secondo me, l'apparenza adesso nella cultura italiana, l'apparenza superficiale è più importante della bravura vera, e questo mi scoccia, perché mi ti tocca, sì, in mi qualche tocca modo, perché, certo, cioè, io faccio parte di quella generazione, Aldo, Giovanni Giacomo, Raul Cremona, io, Michele Foresta, tutti attori, insomma, artisti un po' sfigati, Mago Forrest, ecco, era, perché... un po' sfigati per 20 anni, e poi di colpo arriviamo ai 40 anni, tutti: oh, ma qua, ma che bravi, ma dai. Facciamo le stesse menate da 20 anni, perché è nel cinema, spesso credo sia anche così, perché prima che il lo status ti dia la possibilità, devi averne vinte tante. Ecco, però secondo te questa è una realtà tipicamente italiana o quasi esclusivamente nostra? Sì, perché c'è nostra. Un clientelismo talmente mostruoso e quindi tu vedi magari del cinema mediocre, dici perché questo film è esistito? Ma quello sai, amico di... Ah bon, perché quella lì sta lavorando che fa schifo? Ma quella non dovevamo metterla perché il produttore insomma praticamente gli va a sturare i lavandini. Dico, ah vabbè, grazie. Allora sentiamo, ragazzi, poi se è così, perché il prossimo ospite forse ci racconta un po' anche questa storia. Intanto, se avete domande o curiosità da fare ad Arturo in generale sul mondo del cinema, vi ricordo sempre il numero per gli SMS: 349-238-6666. Il riposo del guerriero. Stiamo raccontando con Arturo Brachetti il cinema in Italia e le difficoltà secondo Arturo. Abbiamo un ospite che è Alessandro Gruttadauria. Ciao Alessandro. Ciao Stefano, buongiorno. Allora, noi ti abbiamo chiamato perché la tua storia è una storia da raccontare che rappresenta quella, credo, di tanti ragazzi che sognano di fare il cinema. Innanzitutto ci si prepara, si studia, questo è fondamentale. Beh certo, questo è fondamentale, comunque delle basi ci vogliono, perché comunque ci sono tutte le materie tecniche, anche partendo solo semplicemente dalla storia del teatro. Noi abbiamo una cultura teatrale enorme e vasta, quindi comunque qualcosa bisogna sapere, ecco, giusto per iniziare. Poi sicuramente vabbè, le cose basilari, la dizione, la fonetica, insomma, quelle sono anche importanti, perché quando si parla in pubblico, soprattutto si recita, comunque la dizione deve essere giusta. E poi comunque l'esperienza, lavorare, quello secondo me è la miglior scuola dopo aver avuto le basi, insomma. Ecco, certo, lavorare, qui entriamo nel problema, nel senso esatto. Che Alessandro ha lasciato Milano per andare a Roma, perché sì, quando esatto. Si parla di cinema fondamentalmente si sta a Roma, e tu hai interpretato varie fiction anche di successo, vari ruoli in attesa del ruolo giusto. Ecco, Arturo diceva in Italia, puoi parlare, puoi fare sì, anche tu le domande, no? Te lo clicco sì, perché ciao. Ciao, infatti mi chiedevo se tu eri più un attore o un regista. Cioè. Guarda, io dico pecco un po' di presunzione, sono regista di me stesso. Ah, nel senso, no, sono attore e analizzo sempre tantissimo i lavori che faccio e cerco di trovare un po' tantissime sfaccettature del personaggio, ecco, oltre a studiare bene la parte. Cerco sempre di entrare anche nel sottotesto, come si suol dire. Ah beh, certo, poi esatto. La camera ti entra nell'anima attraverso gli occhi, non è come a teatro che hai mangiato la peperonata e muori lo stesso, che il pubblico piange. Invece esatto, a teatro... esattamente, uguale. Così è. Senti, così ma io anni fa mi era venuta la velleità, dici, ma perché non entrare anch'io nel mondo del cinema? Mi hanno spiegato anni fa, non so, chiedo a te se è cambiato, che bisognava andare a Roma, essere a disposizione, cioè bloccare tutto, tournée, qualsiasi, anche se lavoravi in una gelateria, via, no, devi andare a Roma e stare lì e non so, sì, dico, vado a fare delle audizioni, sì, ma è più importante andare a mangiare con Tizio Caio Sempronio e poi dopo ti dicevano, sì, c'è da fare un film, oh, chiama Gigetto che l'abbiamo visto l'altra settimana, e era tutta una roba così, è ancora così purtroppo allora, o no? È ancora... così sì, diciamo che ecco il passaggio delle cene, degli incontri, così sì, può accadere, però io diciamo mi muovo invece in un'altra maniera, nel senso accetto di fare cose teatrali che mi interessano, che vanno bene per me a Roma, che rimangono solo a Roma, che non hanno tournée, in maniera tale che poi inviti comunque gli aiuti registi, casting a certo, vederti. Quindi ti fai un'audizione permanente in cui sei tu che sì, inviti. Sì, esatto, certo. Perché almeno ti vedono in azione, poi anche quando magari c'è qualcosa, magari mio fuori in uscita, così, e magari chiedo insomma se possono guardarlo anche per vedere magari altri ruoli, insomma, che interpreto, per vedere un pochino quello che potrebbe essere giusto anche per loro, ecco, quello che cercano. Alessandro, intanto per gli ascoltatori abbiamo scelto Alessandro semplicemente per un fatto, perché ha una storia da raccontare, ovviamente ha fatto questo salto lasciando la propria città e vedendo cosa può succedere con fatica, ovviamente, e poi da un anno interpreta il ruolo principale in una famosissima pubblicità di caffè, di Cialde per caffè. Caffè è l'unica che non usa personaggi del cinema, e quindi avete forse capito la faccia qual è, e la quattro lettere è orizzontale. Posso dire di chi è la regia? Cioè, come no, certo. Okay. La regia è di Luca Lucini, che vabbè, è un attore di un regista di cinema italiano, che lui si è specializzato nella commedia, e sono stato molto contento che lui mi abbia scelto per questo appunto ruolo, perché hanno deciso di fare appunto un lavoro carino, uno spot veramente carino e divertente, dove interpretiamo io e un altro attore, faccio il nome perché è molto come bravo, no, certo, Stefano, Santo Pennini, è un caratterista che ha fatto tantissime cose. Esatto, interpretiamo due siciliani ed è molto carino, è molto... E quindi siamo infatti adesso in video con questo spot. Ecco, Alessandro, fatto, sì. Gli americani tra l'altro così snobbano molto la pubblicità, e quando vanno a farla la fanno all'estero, no? Perché sì, guai sì, per loro. Sì. Però volevo chiudere con questa domanda, arriva da sì, un messaggio da Mauro di Legnano, che dice, sì, dice secondo me, secondo Mauro, questa storia sul clientelismo nel cinema è scorretta, snobistica e populista. Basta prendere i primi 10 film italiani del 2010, analizzare i registi protagonisti e poi vediamo se veramente ci sono i raccomandati. Alessandro, sei d'accordo con questa affermazione? Cioè, è vero che non c'è più questo clientelismo, o in realtà ce n'è ancora e magari non è nei protagonisti ma nel mondo che sta intorno ai protagonisti? Ma guarda, io devo dire che in Italia diciamo che non c'è il rischio, quindi la gente nel momento in cui vede che due o tre attori funzionano e fanno comunque botteghino e vengono comunque seguiti e hanno il loro pubblico, si cerca di sfruttare sempre quelli, loro, non c'è l'apertura, non c'è molto al nuovo. L'apertura al nuovo, devo dirti la verità, perché comunque è un fatto alla fine commerciale, è un fatto commerciale perché... Sì, si pensa che si vendano più biglietti, ovviamente sì, con delle facce più conosciute. Sì, esatto, esattamente. Quindi purtroppo la gente non rischia, a meno che tu non sei un grande talento che veramente buchi lo schermo, sei veramente particolare, allora forse c'è una piccola percentuale dove magari provano a investire su di te, ma sempre affiancato, non avrai subito un ruolo da protagonista, affiancato comunque a dei nomi che in quel momento magari stanno andando. Le conoscenze sono ancora importanti? Sì. Grazie, devo devo dire di sì. Va bene, è stato chiaro. Grazie Alessandro, grazie in bocca al lupo. Grazie a voi, ciao. Grazie mille. Grazie. Ecco, tu cosa pensi di questo? Appunto, che è così populista dire che... Ma io appunto non sono andato, no. Cioè, attenzione, raccontato da Arturo che insomma negli anni, quando c'era il Paradise con Lionello, che anni erano? 83, 85 in poi, ecco, com'è che ci sei arrivato al Paradise tu, al programma televisivo? Perché avevo visto all'Inghilterra, io lavoravo a Londra, e al Paradise aveva vinto un premio internazionale di televisione e l'hanno trasmesso alla televisione inglese, cose che si facevano 30 anni fa, e poi allora ho detto, ma che bei programmi fanno la televisione italiana. Appena tornato in Italia ho preso la guida del telefono, sì, ho cercato Antonello Falqui, regista, sì, era sulla guida del telefono, dice, buongiorno, io sono Arturo Brachetti, faccio questo e quest'altro. Mi fa, fammi vedere delle videocassette, mi ha ascoltato, mi piacerebbe lavorare nella televisione italiana. Lui dice, guarda, tra qualche mese incomincio il nuovo Paradise, mi piacerebbe avere nel tuo cast. Cioè, è stata una cosa civilissima e... Per carità, adesso ripensandoci mi stupisco pure che uno arrivi lì come un rappresentante di aspirapolveri e l'altro ti ingaggi solo su delle videocassette, così è stato molto onesto. Poi l'Italia a un certo punto è sparita. Sì, va bene, l'Italia. No, io sono rimasto, ma poi all'estero ci andavo 6 mesi all'anno proprio per... Ecco, ma è così importante avere successo all'estero per tornare in Italia? No, non è così fondamentale. No. Nel mio campo sì, perché non c'è questo genere di teatro visivo, certo. Non c'era. Adesso gli italiani vanno a vedere il Cirque du Soleil, o il Slava Snow Show, o questi spettacoli visivi, il Cirque Luask, tutti gli spettacoli internazionali che vengono da noi. Ma una volta no, c'erano le grandi commedie musicali, il teatro di prosa... basta. Continuiamo a parlare di cinema. Sì. E i francesi, visto, e gli inglesi, che forse sono, tu hai girato tutto il mondo, queste sono le nazioni forse le conosci un po' meglio insieme, sì, agli Francia americani. Sì, Francia conosco abbastanza. Ecco, sì. Che genere di film amano i francesi? Quelli di oggi però, cioè i ragazzi di oggi cosa vanno a vedere? Le commedie come noi? In Francia che... esistono queste grandi catene di cinema, tipo sì, l'UGC, eccetera, che ti fanno la tessera annuale, sì, per cui tu paghi un tot e puoi andare al cinema quanto vuoi. Ah. Quindi mi pare sia un abbonamento mensile di... ma 10 euro, no, poco più, ma è una cifra proprio molto potabile, che tu con 10 abbordabile, sì, quindi, e quindi anche, tutti anche, ci vanno. Sì, con 10 10 biglietti dei nostri puoi andare all'anno, sì, loro calcolano in un anno un francese medio può andare a vedere 10 film. Bene, sì, 10 film stanno nella tessera, sì, tutto il resto è gratis. E quindi io ho amici miei che vanno al cinema ogni 2-3 giorni. Certo, perché comunque ci vai anche per passare 2 ore, cioè, sì, già che ce l'ho andiamo a vedere. Ma chiaro, sì, ma veramente che entra da un film va a vederne un altro, per cui hanno delle entrate mostruose, tipo il film ha fatto 4 milioni di biglietti, no, sì, su quei biglietti là di presenze, certo, di presenze. Poi è molto magari diverso, è molto diverso, però questo meccanismo non so come, ma ha prodotto un introito fisso per l'ente cinema francese, sì, che ha dato molte possibilità a nuovi registi, nuovi progetti di prendere atto. Cioè ha creato come uno zoccolo duro di gli abbonati, no? Come di fondi dal quale il cinema francese attinge per produrre anche film che costano molto, epici, di science fiction, film che costano proprio perché comunque garantisce presenze ormai il, sì, cinema, e quindi, sì, diventa una macchina interessante. Quindi adesso è molto più importante, più delle presenze adesso, sì, in Francia è importante proprio invece il gradimento, e questo lo vedono non solo attraverso le presenze. Com'è la qualità della produzione francese? È molto buona, sì, sì. No, davvero. Mentre da noi vedi i film che dice i film più di grande successo quest'anno in Italia sono, e fai la lista, sono tutti film a medio-basso budget. Ci si svolgono in 3 o 4 posti in Italia, sono girati in 2 mesi, eccetera, eccetera. Non sono film, dice un film di quest'anno in Italia si svolge in Tibet. È costato, non so, 20 come il Natale milioni non era in India quest'anno? Sì, sì, insomma, vabbè. E quindi, in Sudafrica, scusami, Sudafrica. Sì, perché se no non sono rimasto. Però io non... c'è stato un film quest'anno, adesso non vorrei che mi fosse sfuggito, su un personaggio storico, su una storia che si svolge... Proprio un film di costume, sì, dici, con una bella ricostruzione, che quindi costerebbe molto di più, certo. Lo fa poi magari Hollywood alla loro maniera, tutto edulcorato, in cui l'Europa sembra una Disneyland un po' sporcata, sì, ma è tutto finto. Questo infatti è interessante. Non te l'ho mai proposto l'assessorato alla cultura e spettacolo a Torino? A me? Sì. A me? Ma sì, dai, ma io c'ho altro da fare. Non te l'hanno proprio mai proposto o se lo proponessero? Sì. Non lo so. Non lo sai. Me l'hanno proposto. Però sempre, immaginavo. Sai, bisogna... E poi la politica è tremenda. Io conosco dei politici purtroppo e vedo che si fanno le scarpe tra loro tremendo. Ma perché non avete messo in quel posto lì quel signore lì che lo meritava? Lo merita tanto, però sai... Dovevamo mettere l'altro, allora, che punto, è un illustre sconosciuto, un altro ignorante, perché mettete quello là, metti l'altro che è bravo, non possiamo. Allora, beh, queste cose mi danno i nervi, meno male che faccio il mio teatro. Ecco, che è difficile anche quello fare in Italia comunque, anche se prendiamo, diciamo, una parentesi al teatro, sì, forse sì, certo, ci vuole. Ma è uguale, è molto difficile, molto dura, specialmente in questo periodo. Ma perché noi siamo un po' meno abituati ad andare a teatro, gli italiani, ma ormai oggi. La cosa è tremenda. O perché costa aperto... molto, questo è sempre nell'idea della gente, però non è così. Non è vero, perché adesso a teatro ci vai con 12 euro e chi va a teatro, per fortuna adesso, parte... gli abbonati che sono delle mummie, poverini, che sono un parcheggio di pensionati, vabbè, hanno diritto anche loro di andare a vedere la loro commediola che hanno vista 30 volte o il Festival dell'Operetta, bellissimo, questi sono tipo mia madre, no? Va benissimo. I giovani vanno nei teatrini piccoli e scoprono il teatro, quello insomma, contemporaneo, e quindi magari ci ritornano, solo che in una sala di 200 sono in 50, capito? E pian piano, solo che, per esempio, sul giornale almeno sul giornale di Torino, io cercavo l'altro giorno, dico vado a teatro stasera, è scomparsa la voce teatri. Cioè, cosa fare stasera? Cinema, concerti, teatro, dov'è il teatro? E una volta alla settimana esce fuori il... La locandina di tutto, il calendario di tutta la settimana. Allora, sì, che, io ciao, non ho quel giornale lì, io di mercoledì sera non ho la lista. Invece certo. A Londra, a Parigi, cioè, tutte le città, time out, prendi più tutte le free press, c'è scritto cosa c'è a teatro stasera, per me questo è un altro modo per non invogliare troppo ad andare a teatro. Invece bisognerebbe andarci, non dico tutti i giorni ma quasi. Gli aggiornamenti sul traffico, poi parliamo con un giovane regista. Invece il riposo del guerriero. Andiamo a parlare di cinema con Arturo Bracchetti qui in studio con me, e tra l'altro in scena in Italia adesso nei prossimi giorni con Ciak si gira, il titolo in italiano, non l'abbiamo detto prima. Il numero per gli sms 349-238-6666 per presentare l'ospite che tra poco sentiremo. E leggo un messaggio, eccolo qua: il cinema italiano oggi ha perso un anello internazionale di anni fa ed è ad uso nazionale. Pierpaolo De Santis, buona giornata. Buona giornata a voi. Ciao Pierpaolo, 32enne, hai già diretto tante cose, hai prodotto veramente moltissimo per la tua età, secondo me, bravo, davvero. Tanti documentari anche dedicati a grandi registi italiani, Monicelli, Lizzani, Dario Argento e ancora altri. Raccontaci com'è il mondo dei registi oggi a Roma. Tu la vivi in modo, devo dire, costante e quotidiano, visto che sei dottore di ricerca presso il Dipartimento della Comunicazione e Spettacolo dell'Università di Roma. Beh, intanto non è un mondo molto semplice come potete immaginare. Chi fa il regista oggi e che ha più o meno la mia età non fa soltanto il regista, deve fare necessariamente altre cose per vivere, che sono più o meno collegate con il cinema. Nel mio caso io organizzo rassegne, festival, collaboro nella selezione di film a vari festival, scrivo di cinema come critico, insomma mi muovo anche su altre strade, faccio il montatore per altri, cerco di vivere comunque restando nel campo del cinema, ma non posso vivere soltanto facendo il regista. Quindi per sbarcare il lunario devi darti da fare, non c'è niente da fare. Come, scusa? Per sbarcare il lunario devi darti da fare. Assolutamente. È vero che è vero secondo te che il cinema italiano oggi ha perso quel senso di internazionalità che aveva una volta ed è molto più nazionale, come scrive questo messaggio, o no? Non è così? Forse era vero fino a qualche tempo fa, secondo me. Non vorrei tornare sui soliti nomi e i soliti discorsi, ma da quando insomma c'è stata la vittoria, la duplice vittoria a Cannes di Garrone e Sorrentino con i loro rispettivi ultimi film, credo che si possa tornare a parlare anche di internazionalità del cinema italiano. Lio e Gomorra sono due film strettamente internazionali, pienamente internazionali e contemporanei. Sì, e secondo te quali sono le difficoltà che incontra un giovane regista oggi in Italia? Beh, innanzitutto essere ascoltati, non è semplice, bisogna muoversi tantissimo. Tu hai sottolineato le molte cose che ho fatto, la maggior parte di queste cose sono chiaramente fatte a livello semi-indipendente o totalmente indipendente, quindi sobbarcandomi in prima persona la produzione, i costi, aiutato da piccole case di produzione indipendenti a loro volta. Quindi non bisogna assolutamente stare fermi. È chiaro che se vuoi essere ricevuto da Fandango o qualche altra società di produzione molto più grande, devi avere anche un curriculum alle spalle, non puoi non essere qualcuno. E come te lo costruisci questo curriculum? Appunto, facendo le tue cose, seguendo i tuoi progetti. Ecco, però, perdonami per Paolo, però questo mi fa pensare che quindi riesce chi ha le spalle un po' coperte, cioè chi in qualche modo... No, non dico questo, anzi, dico che bisogna fare, non sto parlando assolutamente di amicizie importanti. No, ma io parlo di soldi in questo caso, cioè produrre una cosa per sé comunque costa, per quanto possa costare. Produrre secondo me anche a costo quasi zero, insomma. Se l'idea c'è, non importa la sua realizzazione, importa quanto quell'idea è forte e quanto tu riesci a a suggerire quell'idea più che a realizzarla completamente. Cioè praticamente le cose che ho fatto sono appunto realizzate come in forma di promo. L'ultima cosa che ho fatto è un mediometraggio nato appunto concepito appunto per essere un promo di un lungometraggio, di un qualcosa appunto di un film che può nascere soltanto avendo alle spalle una produzione più ampia. Quindi tu coinvolgi degli amici, dice, amici attori, dice, mi fate sto favore di recitare in questa specie di prova non retribuita, e anche per i luoghi, dice, andiamo da un amico che c'ha un ristorante, un altro che c'ha un prete, mi fa girare in chiesa, così praticamente, no? Questo si può fare in molti modi, e chiaramente io parlo di farlo in maniera attenta e funzionale, cioè con gli amici che coinvolgi sono amici che hanno a loro volta dell'esperienza alle spalle, cioè parlo comunque di troupe professioniste che interrompono per un momento il loro lavoro nel cinema, diciamo, istituzionale, e vengono ad aiutarti sul tuo set per concretizzare questo. Beh, questo c'è ancora progetto. Molto entusiasmo quindi nella gente che... Assolutamente, se non ci fosse entusiasmo faremmo un altro lavoro, sì. Questo è sicuro. Poi insomma la situazione politica e culturale di questo paese non è semplice produrre. Ecco, allora veniamo a quello, nel senso che la domanda iniziale: quali sono le difficoltà? Ci sono anche difficoltà di questo genere di conseguenza in Italia? Assolutamente, non si parla soltanto di FUS, di Fondo Unico per lo Spettacolo, ma si parla di tutto, cioè ci sono le regioni che magari finanziano dei progetti di documentari o degli spot che comunque ci consentono di vivere, di lavorare, sì. di metterci alla prova, di sperimentare. Nel momento in cui ci sono dei tagli, c'è un altro tipo di politica culturale che viene fatta, cadono anche questi bandi, cadono queste erogazioni anche da parte delle regioni, da parte delle piccole realtà che comunque finanziano tutto un microcinema che sta sotto poi il cinema che vediamo in sala. Ma infatti quello che volevo cercare di far emergere oggi era proprio questo, cioè il cinema non è fatto solo di stelle, no? Ma è fatto di un mondo sconosciuto ai più, fondamentalmente, ma è un mondo ricchissimo, con tante persone che hanno tante cose da dire. È un mondo ricchissimo, basta pensare a quanti festival di cinema in Italia ci sono oggi, credo che la cifra sia superiore ai 300, se arrivi quasi ai 400. Ci sono il circuito, quello dei festival italiani, e per non parlare di quelli internazionali. Ecco, però, insomma, è stato censurato, no, ma è vero, i festival ce ne sono tantissimi, i corti cominciano finalmente a interessare un certo tipo di pubblico, sì, sono divertenti, e poi forse in un mondo, in un momento storico in cui tutto va molto veloce. Ma infatti anche per questo, perché se uno vede un film adesso degli anni 30 che ha quei ritmi... richiami i ritmi? Sono dei ritmi interni, sì, no? È vero, assolutamente. O anche degli anni 70, già dei film anche di Pasolini, per carità, di grandi autori, che però è un paesaggio che dura. È un altro modo di raccontare, sì, è cambiato chiaramente il linguaggio, questo sicuramente. Continuiamo a parlare di cinema con Arturo Bracchetti e con altri ospiti. Io vi ricordo ancora il numero per gli sms: 349-238-6666. Dopo il GR. Il riposo del guerriero. Stiamo parlando di cinema con Arturo Bracchetti nel riposo del guerriero, 11:05 minuti, ancora buona domenica da Stefano Gallarini. E Arturo, allora, così facciamo una regressione, torniamo a un po' di anni fa, la tua esperienza hollywoodiana. Sì, perché quasi nessuno lo sa, io ho lavorato a Hollywood. Sì, cosa facevi? Facevo un ruolo in una sitcom americana ed è stata un'esperienza incredibile, perché la mentalità è proprio diversa da qua. Innanzitutto si lavora un tubo. C'è stato 3 mesi a Hollywood, sono stato 3 mesi annoiatissimo. Perché tu vai a Hollywood e dici: cavolo, sono qua nella capitale dello show business, chissà cosa farò per questi 3 mesi, erano 10 puntate. No? Invece capisci che Los Angeles è una serie di autostrade e basta. Tu prendi l'autostrada per andare a prendere caffè. Dici, voglio prendere caffè. Prendi la macchina, fai un quarto d'ora, svincolo. Ma perché? Perché così. Non esiste, in America non esiste il centro storico, non esiste neanche l'agglomerato. Vai da un shopping mall a un altro shopping mall, no? Come dire, come se tu a Milano dici andiamo a prendere un caffè. Bene, dobbiamo andare da Ikea. Ah. E poi la pizza, e dobbiamo andare da Auchan dall'altra parte della città, uguale, insomma una rottura di palle. In una settimana ho visto tutto quel che c'era da vedere, e poi c'era il lavoro consisteva in questa sitcom che si svolgeva in un teatro di posa col pubblico vero. Ecco, una cosa interessante è questa: il pubblico è vero, gli applausi sono veri. Ma gente lì che sta lì tutto un pomeriggio a beccarsi sta sitcom che poi dura 25 minuti. E quindi noi si provava una settimana per fare il venerdì la registrazione, ecco, della puntata. Ecco, perché in realtà, almeno in quella sitcom, tante sono fatte così, si recita come se si fosse a teatro. Certo, infatti non abbiamo nessuno al microfono, diciamo radio microfono nascosto, no, sopra agli ambienti, perché lo studio è molto lungo. Qui da una parte ci sono tutti gli ambienti, la stanza, una sitcom si svolge in tre o quattro stanze più un giardino, anche un'automobile, ma è tutto finto. Qualche falso esterno, sì, diciamo. Falso esterno. E poi queste 400 persone dall'altra parte che vedono. Tra l'altro c'è proprio un tendone nero che viene tirato su a un certo momento, come se fosse un sipario. E sopra a questa ambientazione ci sta una serie di passerelle con i persisti, i microfonisti. No? I microfonisti con dei fucili. Come funziona con il cinema? Esattamente. Presa, no, diretta. Sì, però ognuno segue un personaggio. Ah, okay. E quindi si prova una settimana per dire, se tu hai un secondo ruolo come io avevo, per dire quelle cinque battute. Ecco, però non puoi sbagliare. Tremendo. Non puoi sbagliare una virgola, non puoi neanche suggerire. Cioè, devi dire questa battuta posando questo bicchiere sul bollino lì. Sì. Ok, lo si fa, lo si prova, e dico, ma posso dire, a un certo punto io volevo dire porca vacca, sì. Perché dice, io facevo l'italiano, cioè, ti incavoli e devi dire, mi hanno scritto una roba tremenda, dico, ma noi in italiano non diciamo, posso dire porca vacca? Tre giorni il summit, ma mica dirà una roba che poi dopo qualcuno, quindi non c'è spazio all'improvvisazione, zero. E poi ogni scena si gira tre volte. Cioè, loro vanno da uno spazio pubblicitario all'altro, questo sì. è lo spazio di una certo. scena, quindi dura 4-5 minuti. Diciamo, questa scena X si svolge nel ristorante, ok, siamo tutti nel ristorante, diciamo le battute, entra, esce, la gente ride, applauso, quindi dobbiamo anche aspettare che la gente finisca il di ridere. Il vero applauso della vera risata. Tu definisci la vera risata. Cioè. Poi finita la scena, dice, ma questa ce l'abbiamo nel sacco, no? Come dire, in the box. Invece no. Summit degli autori 12, e quindi tu stai lì truccato eccetera, eccetera, vestito, dopo 5 minuti ti vengono a dire, allora tu quella battuta la cambi, tu aspetta un tempo, e si rigira la stessa scena con le variazioni, che a volte sono anche importanti, perché ti cambiano una battuta magari lunga in inglese, non è facile, però questo richiede una grande capacità recitativa, nel senso che non potendo sì, sbagliare per loro era recitare. Molto più facile, per me come italiano molto meno, e mi stupiva questo pubblico che si ribeccava gli stessi 5 minuti, che rideva di nello nuovo per le stesse modo, cose sì. Non lo so cosa gli davano sti qua, però. Senti, è vero che un aperitivo avete fatto alcolico, una puntata magari. Speciale invece in diretta replicata per sì. tot volte, perché a seconda dei fusi orari sì, doveva andare in onda. Per il Drew Carey Show, che sì. è un sitcom che si svolge in un ambito di uffici, sì. Io dovevo fare uno che veniva a per lavoro, no? Dice, vorrei essere assunto, ma lei cosa sa fare? Allora mi giravo su me stesso, ma io sono dinamico, diventavo tipo un rocker, ma lavora bene. Sì, certo, mi hanno preso per questo, perché gli attori bravi ne hanno milioni, no? Mi abbiamo preso solo perché mi cambiavo velocemente, e giustamente l'hanno fatta in diretta per dimostrare che non c'era un trucco televisivo, quindi mi cambiavo tre o quattro volte, alla fine dici, ma no, lavoro forte come un'ape, e diventavo un'ape e uscivo fuori così. Però per fare la diretta in America hai tre fusi orari, esatto. Quindi l'abbiamo fatta a Los Angeles quel giorno lì, l'abbiamo fatta una volta alle 4 di pomeriggio, che sarebbe stato già le 6 o le 7 di New York, poi l'abbiamo rifatta alle 6, che sarebbe per l'orario di Chicago, poi l'abbiamo fatta alle 8 per la diretta vera di Los Angeles, quindi tre volte uguale. uguale, però una puntata in cui il pubblico era una puntata strana. Il pubblico poteva schiacciare un campanello, ding, sì, e gli attori, quelli veri della sitcom, dovevano cambiare le battute, fare una specie di improvvisazione diversa. Quindi sono tre puntate simili, ma non uguali. Ci hanno provato anche una trasmissione in Italia, tra l'altro anche di successo. E proprio collegandomi a Hollywood, al cinema americano, ma non soltanto, ormai i film, ma anche le sitcom, cominciano a non avere più il lieto fine, non vanno più a finire bene. E perché secondo te? Ma non lo so, perché secondo me i registi si vergognano del lieto fine, perché cioè, non rispecchia più la vita comune. Che è vero che ognuno di noi ha delle gioie nella vita che poi sono sempre accompagnate da piccole ombre, poi magari dopo un anno i sogni si possono frantumare, non è detto che vengano però per forza quando realizzate. Uno va magari a vedere un film, vuole ancora sognare? In certi film penso che sia importante poter, perché è un palliativo, è un'iniezione di è per questo che Checco Zalone ha fatto più successo della Vita è bella? Ma sapere, forse sai, è difficile dire una domanda trabocchetto, perché in effetti io amo molto Checco Zalone, però credo che proprio anche come costruzione del film, come messaggio, come tutto, La vita è bella ha tutta un'altra dimensione, no? E secondo me in questo momento la gente sì, forse sarà difficile da portare anche agli Oscar Zalone, e credo, con tutto no? Il bene che li ma vuole, sicuramente, assolutamente non è una polemica, è semplicemente sa, un'affermazione molto, ma certo carino. Che lo sa, una persona molto intelligente, sì, e anche brava. E a proposito di film italiani, sentiamo il trailer di questo film che sta facendo discutere per molti aspetti. Mi è stato chiesto se vengo eletto cosa intendo fare per i poveri e bisognosi. Una beata minchia! Con le parole io avrei finito, ora facciamo parlare i fatti, va? Facciamo parlare i fatti! Votate Cetola Qualunque, la politica che scende dalla gente! Votate Cetola Qualunque! Non costano niente, è tutto offerto da Cetola Qualunque! Questo era il trailer di Qualunque Mente. Fra l'altro alcuni ascoltatori stanno scrivendo che andranno a vederlo oggi, non l'ho ancora visto, vedremo come tu l'hai visto per caso il film, no? Amici l'hanno visto. E adesso poi vediamo un po' come andrà. E Marta Cagnola l'ha incontrato per noi e gli ha chiesto in qualche modo chi è Cetola Qualunque, che tra l'altro arriverà anche alla Mostra del Cinema di Berlino. Vogliamo dimostrare che c'è gente che in un modo o nell'altro riconosce un certo tipo di politica come qualcosa di molto ridicolo. Noi questo vogliamo raccontare, di questa rassegnazione, di questa perdita di morale, lo vogliamo affrontare con comicità, e la comicità è capace di contestare parecchie cose, o quasi tutto, e lo vogliamo fare ridendo, perché siamo entrati nella fase dove un certo tipo di politica è diventata estremamente ridicola e incapace di gestire. Siamo andati oltre ormai la riflessione, il pensiero, l'arrabbiatura, tutto quello che è. Per noi tutto questo è molto ridicolo, da qualche anno a questa parte. Volevamo poi raccontare chi costruisce, chi appoggia Cetola Qualunque, perché il pubblico ce lo ha chiesto, e io sono spettatore e sono pubblico anch'io. E quindi secondo noi l'idea è che in Germania capteranno il messaggio e diranno: c'è qualcuno che comunque in Italia reagisce e non si serve di quella situazione solo e semplicemente con una contestazione unica e diretta e solo verso una strada, ma c'è chi in Italia va oltre quello e ha captato e ci trasmette che tutto quello che li circonda una parte è ridicolo, capito? Sei d'accordo su questa affermazione? Assolutamente. Secondo me questo film avrà più successo agli occhi degli stranieri che ai nostri. Perché ci vedono proprio così? Sì, ci vedono così. Io mi ricordo, tempo fa ero in Canada e c'era ogni settimana, alla fine del TG, due volte alla settimana, cosa ha fatto questa settimana Berlusconi? Come dire, qual è la barzelletta della settimana nel campo del TG? Ed era un'uscita del nostro, o dei nostri, perché mica è l'unico, è come se fosse un numero da cabaret. E la gente, penso, purtroppo, ormai vede il quotidiano politico come se vedesse una sitcom da ridere. E non è una sitcom. No, perché poi ci coinvolge, gli paghiamo. Insomma, E la cosa che mi ha sconvolto da un certo punto di vista, ma che ci deve far pensare, sul Corriere di qualche giorno fa c'è un articolo che dice: il partito Dupilu può arrivare al 9%. Sondaggio fra gli elettori: se fosse una forza politica vera, avrebbe il 2,3% di consensi sicuri e molti altri probabili. E solo PDL e PD e Lega farebbero meglio. Vi lascio pensare prima di salutare Arturo e aggiornamenti sul traffico. Il riposo del guerriero. Siamo quasi agli sgoccioli e volevo chiederti ancora quanto lo spettacolo possa essere interessante dal punto di vista culturale, se ancora viene letto in questo modo. Qualsiasi cosa che secondo me uno può fare uscendo di casa, di sua sponte, è culturale perché lo arricchisce. Anche una gita al... Quindi anche la cosa tra virgolette più stupida o leggera. Ma sì, certo. Quindi vado ad andare a vedere una mostra di un pittore, ma anche andare a vedere una gara di motocross. La cultura è un po' vasta, un senso un po'... perché la cosa peggio è rimanere a casa, appunto, a vedere la televisione che... Non so come, secondo me il cervello non immagazzina uno stesso ricordo se lo vede in televisione, per quanto possa essere ben filmato, o se lo prova sulla pelle. Prova lì con gli odori e le sensazioni, soprattutto dell'essere intorno ad altri. E secondo me la cultura accomuna per quello. Noi a Torino, per fortuna, abbiamo un comune, delle diverse entità che producono molti festival che, per esempio, radunano tutta la multietnicità della città attraverso degli eventi culturali che magari culturalmente non sono così pesanti, però c'hai l'africano, il marocchino, il piemontese, tutti lì a vedere una cosa che magari non sarebbe interessata se non fosse, avesse questa connotazione di festa. Certo, sì, perché è fondamentale. Io sono per la cultura. Un po' per tutti, sì. È importante, perché così siamo meno rincoglioniti quando poi dobbiamo fare lo scalino superiore. Mi trovi assolutamente d'accordo. E quanto è importante invece l'impegno sociale per chi fa un mestiere come il tuo? Secondo me quanto un dovere? Ma è importante per se stessi, perché quando fa un mestiere che piace, come posso essere il mio, e che guadagna anche bene, secondo me poi cattolicamente ci siamo un po' colpevoli, perché a me, io sono tra lo 0,5% di quelli che fanno un mestiere in cui si sentono realizzati e gli altri no. Cosa posso fare anch'io per soffrire un po' cristianamente invece? Ma a parte quello, quindi questo è il mio retaggio da seminario. E uno vede anche poi, forse se non è una pietra, vede intorno a sé la miseria umana, no? E allora cosa posso fare per gli altri? Che non è solo quello di firmare un assegno, sì, ogni tanto, che sono capaci tutti. Per quanto mi riguarda, io aiuto una mia amica che ha aperto una scuola per i bambini zingari in Serbia, proprio per togliergli dal marciapiedi, non solo dai marciapiedi che ci vanno a rubare, no, anche dalle fabbriche, perché in Serbia ci sono pochi rom che chiedono l'elemosina, ma tantissimi che rischiano la vita in una fabbrica per 80 euro al mese. E hanno, parliamo di bambini, ma insomma 14, sì, certo, 20, ecco, non proprio bambini. E questi qua, lei ha creato una scuola perché appunto nella scuola uno impara a scrivere, a leggere, certo, e a difendersi, a parlare inglese per poter uscire magari da una situazione tremenda, perché è la scuola la vera ricchezza. Perché dare i soldi, quando mi hanno spiegato, lì dice: non devi dare i soldi al rom che poi dopo poverino lo deve dare al capo suo, che poi l'altro si compra la Mercedes, perché anche lì una mafia piramidale tremenda. È meglio, molto meglio, riuscire a dargli un'istruzione, che capiscono da loro stessi che devono migliorare, devono cambiare questa loro tremenda situazione certo, attraverso di loro. Non... E questo vale per tutti e per tutto, anche per noi. Qual è il film, per chiudere, che avresti voluto interpretare o che vorresti interpretare se tu avessi questa possibilità? Domandona, però Edward Mani di Forbici L'hanno già fatto, un film che non hanno ancora fatto? Cosa hanno fatto? Oh, vabbè, è stato fatto tutto, penso. No, magari no, assolutamente. Non hai una sceneggiatura pronta nel cassetto? No. Purtroppo non mi appartiene il cinema. Anche quando mi hanno proposto in Francia dei produttori, se hai un'idea la facciamo. Tutti mi dicono, dai, cavolo! Certo. E invece dico, guarda, no. No. Per spettacoli teatrali. Io ho visto un tuo film, se vuoi lo posso mettere su YouTube. Un mio film? Ma non lo farò. Quale? È un cortissimo, amatoriale, chiaramente fatto con gli amici. Perché non mi fai gli occhietti, ma non capisco qual è. Arturo si diverte a riprendere gli amici, a recitare, a fare delle cose. Ah, sì, quando prima di YouTube, ecco, quindi tempi non sospetti. Mistero della cheesecake, esatto, quelle cose lì. Quando finivamo morti con le candele, sì, vabbè, esatto. Accese però. Accese, esatto. Grazie Arturo Brachetti, se volete le informazioni su quello che sarà il tour in Italia, ma anche in Francia, in fondo ormai è tutto vicino, grazie al cielo, con aerei e treni tutto raggiungibile, brachetti.com per il sito. E io ti saluto con un messaggio, fra i tanti che sono arrivati, ma che piace molto anche a me. Ringrazio Gianluca per averlo scritto. Dice Brachetti, sei un gigante e non ti accontenti mai, grande, ma sei ma sì, sei un grande italiano, e quindi devo dire che all'estero lo sento questo peso. Proprio ultimamente dovrò fare un programma televisivo francese tra 2 mesi e mi hanno chiesto, invita chi vuoi di italiano, perché la puntata è dedicata all'Italia. Siamo rimasti lì un bel po', perché molti italiani da noi conosciutissimi dicono, ma chi è questo qua? Certo. Ma chi è? Ma anche nomi che dici, figurati questa cantante. Non può non conoscerla. Perché in effetti il periodo degli anni 70, 80, in cui si scambiavano molto gli attori francesi e italiani, è finito, e quindi sono rimasti 2 nomi nella musica leggera e nel cinema anche lì 2 nomi, Benigni certamente, ma intorno a Benigni pochissimi, quindi non so chi potrò invitare. Non la conosco. Inviterai te stesso con tutti i tuoi personaggi, così a questo punto siamo veramente in tanti. E una cosa invece che l'Italia, insomma, l'Italia è conosciuta per questo, almeno spero, arriva il nostro gastronauta. Il gastronauta. Davide Paolini, buona domenica. Buona domenica a tutti, ciao, eccomi qua. Ciao, allora Arturo Brachetti, reduce dalla Francia, è qui con noi, e che appunto dice, gli italiani, guarda che in Francia gli italiani, non ce ne sono gli italiani famosi, ma noi riusciamo invece a rendere più famosa la nostra cucina ai francesi o no? Sì, mi dici. È sempre dura no, perché i francesi sono molto sciovinisti su questo. Hai ragione, però noi siamo più meno porcelloni in cucina, dai, più sani. Diciamo che a Parigi, in Francia, c'è un cuoco italiano che è molto stimato e molto conosciuto, solo che ora ha chiuso il ristorante, che è Fulvio Pierangelini, del Gambero Rosso di San Vincenzo era. Ed è addirittura Le Figaro, ogni anno a Natale faceva un concorso e chi vinceva aveva una cena da Pierangelini a San Vincenzo. Oggi però so che lui fa molte cene a Parigi e ha molti progetti su Parigi. Vai, vediamo un secondo cosa succederà appunto con Fulvio Pierangelini. I vini, sai, il problema è sempre quello, sicuramente le bollicine italiane sono tabù, sono sovraffatte dallo champagne, però ad esempio il parmigiano reggiano e il prosciutto, i vari prosciutti italiani vanno e vanno e come, anche se poi i francesi hanno cercato di copiarci sul prosciutto, perché fanno il jambon d'Aoste, che è una vera imitazione, quel d'Aoste poi può sembrare italiano, invece è un prosciutto francese. Però i salumi, appunto, e qualche formaggio, anche il gorgonzola, è un formaggio che ha una discreta conoscenza. Oggi comunque ci sono molti chef giovani italiani che partecipano così alle manifestazioni internazionali che cominciano a essere conosciuti. Però purtroppo la Francia ci chiude sempre perché è la nostra diretta concorrente. Ecco. Noi invece siamo molto francofoni, come sempre. Se andiamo a vedere, si parla di crisi, se andiamo a vedere i dati quest'anno dello champagne, che ne dica qualcuno, così se andiamo a vedere le vere cifre, lo champagne è tornato ai livelli del 2007 in Italia, quindi sta recuperando quello che aveva perso. E magari si consuma meno foie gras francese, questo sì, c'è anche un buon fegato grasso meno male, italiano, conficatum in amortara, insomma, che è un ottimo prodotto. Credo che noi sbagliamo molto nel volerli imitare. Dovremmo andare avanti con le nostre cose e non scimmiottare alcuni loro prodotti. Qui concordo davvero pienamente proprio su questo limite. Lasciamo che gli altri imitino male e noi, ma noi imitare davvero no. Scusa, interrompo un attimo, Davide, perché vedevo Arturo che continuava ad annuire sulle tue affermazioni. Quando ho detto che è vero che ci copiano, perché in Canada, per esempio, ci sta un allevatore che fa la mozzarella di bufala perché ha importato delle mucche dalla Campania e le alleva e fa una mozzarella, pare buonissima. Cioè, ci sono nel mondo la cucina italiana davvero sta vivendo un periodo fantastico, perché è molto più sana. Ma la cosa che mi ha fatto più ridere è essere a Shanghai, sì, e vedere una scatola di Ferrero Rocher falsi. Cioè, i cinesi hanno falsificato i Ferrero Rocher. Com'è che si chiamavano? Uguale. No, Ferrero Rocher. Infatti, non Fellelo. No. Si sembrava di comprare la statua vera, poi la scatola vera. Poi giravi dietro, c'era scritto Made in Malaysia. Oh, non ne ho assaggiato, forse era un po' purgativo, non ho osato. È vera questa storia, perché poi la Ferrero ha vinto la causa. Ah, ecco, vedi. Sì, c'è stato questo falso e c'è stato un ricorso della Ferrero appunto contro questa produzione di Rocher in Cina, ed è stata anche una causa molto ma molto lunga. Quindi sono cause molto lunghe, perché poi in Cina la tirano le lunghe, sì, e continuano a produrre. Comunque certo. C'è stato questo blocco a un certo punto di prodotti che avevano questo il nome Rocher, che era appunto brevettato dalla Ferrero. Ma il riferimento al Canada non è solamente alle mozzarelle di bufala, è anche al prosciutto di Parma, al prosciutto di San Daniele, che sono prodotti in Canada perché tantissimi anni fa un emigrante italiano ha depositato i due marchi molto prima che non arrivassero i due consorzi a depositare il marchio. Quindi oppure il discorso del Parmesan, oppure dei 22 formaggi i cui nomi sono copiati negli Stati Uniti e girano tranquillamente, perché non c'è questa protezione fuori dalla comunità europea dei prodotti DOP e IGP, quindi solo del marchio commerciale, e chi non ha depositato il marchio commerciale ha questi problemi. Ma questo succederà anche con i vini, perché molti vini italiani che appunto non ricordano il territorio, non hanno analogie di nome col territorio, se non depositi il marchio commerciale rischi di fare questa fine. Quindi ci potrebbe essere un domani il Nebbiolo della Napa Valley, oppure non lo so, il Soave del Sudafrica. Quindi sì, sono d'accordo, perché ho già sentito queste notizie di vitigni proprio portati in California, eccetera. Ecco, senti. Però per tornare alla cucina, sì, io credo che la cucina, questa cucina italiana, che per tanti anni così è stata un po' snobbata, nel senso che negli Stati Uniti le ricerche dicevano che la cucina italiana era considerata una cucina etnica per spendere poco, mentre quella francese era la cucina delle grandi occasioni. Ecco, ora in giro per il mondo, esclusa la Francia, cominciamo a avere, non dico una rivincita, però una rivalutazione sulla nostra cucina, che comincia ad essere maggiormente guardata con interesse, proprio perché è basata su prodotti, pochi prodotti, ma sicuramente di grande salubrità e di grande piacere. Ecco, speriamo che il 550esimo anno che festeggiamo dell'unità serva almeno a portarci anche questo. Grazie Davide, ciao. A domenica. Grazie, ciao. A domenica prossima. Grazie ancora ad Arturo. E tu adesso sarai un po' a Milano, poi torni a Torino e poi comincerai a rigirare di nuovo. Assolutamente, io ricomincio tra due giorni. Ecco, cilindro in testa, perché qui davvero è venuto col cilindro, l'effetto che hai fatto a Londra, però vestito nello stesso modo. Sì, ma sai, io giro per la strada con questi cappottoni, ma cilindri. Cosa dicono? Ma, allora, c'è chi mi riconosce, allora, le vecchiette in Francia, anche qua, super, perché sembra che esco fuori dall'Ottocento, certo. Il conte di Lussemburgo, un'operetta. Poi c'è chi invece mi riconosce come Arturo Brachetti, sì. Mi fa dei segni tipo very good, e poi c'è chi mi chiede le informazioni tipo where is Galeria Lafayette please, cioè pensano che sia uno che dà le informazioni, certo. I peggio sono quelli che mi chiedono se lavoro a Disneyland anche in Francia, sì, in Italia, sì, qualunque lì parte, certo. Vabbè. Grazie Arturo, ciao, tra pochissimo giochiamo e adesso le previsioni del tempo. Il riposo del guerriero. 11.35 è il momento di cominciare a far scattare il nostro cronometro e risolvere il mistero in 24 minuti. Un mistero in 24 minuti. Per voi fino a 1000 euro da spendere in libri, CD e DVD, sempre che riusciate a risolvere il mistero. Può trattarsi di una notizia della settimana oppure di un personaggio. E per arrivare alla soluzione dovete ascoltare gli indizi. Più indizi ascolterete, però, più il premio si abbasserà. Per giocare 800 24 00 24 ed ecco il primo indizio di questa settimana. Come dicono i proverbi, e lo dice anche mio zio, a mente sana, il corpo sano, e adesso son convinto anch'io. Non ci vuole molto allenamento, sai, per stare dritti contro il vento, sai, contro il vento, sai. Eccoci qua, questo è il primo indizio di questa settimana, credo una canzone famosissima, non ha bisogno di presentazioni, ma invece di presentazione ha bisogno Corrado da Vicenza. Ciao Corrado, buongiorno. Buona domenica a tutti. Grazie. Allora, l'hai riconosciuto Luca Carboni di Fisico Bestiale, questo è il nostro primo indizio e siamo a 1000 euro. Ne sentiamo un altro? Non lo so, è una domanda. È una domanda affermazione la tua, quindi cioè, il consiglio è di ascoltare un altro. Scendiamo a 500 euro. È una vecchia canzone che Robbie Williams ha ricantato, si intitola Something Stupid, ovvero qualcosa di stupido, e questo è il titolo. Quindi Fisico Bestiale Luca Carboni e qualcosa di stupido, Something Stupid, Robbie Williams. Corrado, questi sono i due indizi scoperti, non puoi chiederne altri, ma devi dare la tua risposta per 500 euro. Io chiedo scusa alla persona, ma dico Silvio Berlusconi. Grazie Corrado. Perché chiedi scusa al presidente, questo non la persona. Ok, questo. Però va bene, però tu dici, secondo me il personaggio è lui, proprio il personaggio, non la vicenda di questi giorni, il personaggio. Dovendo scegliere, sì. Scegli, diciamo, il personaggio. Tu che cosa mi consigli? No, non ti posso dare nessun consiglio. Grazie Corrado. Buona domenica di nuovo. Ciao, grazie davvero. Rosy di Bergamo, buongiorno. Buongiorno. Eccoci qua. Rosy, allora, due indizi scoperti e una risposta data. Sì, è il terzo indizio. Così d'amblè. Va bene, arriva. È una nuovissima canzone, fra l'altro, uscita da pochi giorni. Siamo io e te. Per sempre. Questo è l'ultimo successo di Gianna Nannina, Io e te, si intitola Rosy ed è il nostro terzo indizio. Fra l'altro stanno arrivando anche molte risposte via SMS, non valgono, però è sempre un piacere leggerle. Grazie. Allora Rosy, ma il signore di prima ha parlato del personaggio, sì, Berlusconi? Sì, sì. Ma io direi la situazione di attualità. Il caso Ruby, chiamiamolo così, il caso Ruby. Ok. Perché? Sì. Chiamiamolo così. È definito, credo, bene. Grazie, ciao. Ciao. Un abbraccio. Tra poco Ronaldo da Piacenza. Vi ricordo il numero per partecipare al nostro mistero. Siamo in questo momento siamo a 300 euro perché abbiamo già svelato tre indizi. Il numero verde 800 24 00 24. Gli aggiornamenti sul traffico. Un mistero in 24 minuti. Leonardo da Piacenza, buona domenica. Buona domenica. Allora Leonardo, tre indizi li abbiamo scoperti. Cosa vogliamo fare? Ah, io proverei la risposta. Allora aspetta un attimo, sentiamo gli indizi che abbiamo scoperto fino a questo momento. Ci vuole un fisico bestiale. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Siamo io e te. Io e te. Fisico bestiale Luca Carboni, Something Stupid, Robbie Williams, Io e te, Gianna Nannini. Leonardo. Dico Nicole Kidman che diventerà madre grazie a una gravidanza surrogata. Grazie Leonardo, buona giornata. Ciao. Chiara dalla provincia di Milano. Ciao. Ciao Chiara, buongiorno. Che bel ciao. Oh, bravo. Me lo ridici? Sì, volentieri, anche perché è stato condizionato dal tuo ospite. Finalmente qualcuno che ci rende orgogliosi di essere italiani in questo periodo ci vuole. Grazie, farà piacere ad Arturo, sicuramente. Allora, Chiara. Anch'io, come il precedente ascoltatore, cambio un po' direzione rispetto alla nota vicenda. E secondo me è Federica Pellegrini che ha deciso di andare a allenarsi all'estero. Insomma, questo è sempre, no, anche con Arturo, la discussione di quanto sia importante l'estero per l'Italia. Ogni volta ci credo, credo incida soltanto la personalità dell'allenatore in questo caso, non il suo desiderio di andare altrove. Certo, però vedi, ogni volta abbiamo a che fare con il cose, in questo caso è diverso chiaramente. Tu cosa pensi, che un così, per divagare un attimo Chiara, ma una curiosità, visto che hai ascoltato la puntata, che per avere successo in Italia bisogna averlo prima all'estero oppure non è più vero? Ma credo che all'estero sia più facile ottenerlo, non è detto che poi altrettanto si riesca. Perché sono diverse le condizioni. Grazie Chiara. Forse il merito lì vale ancora qualcosa. Così dice chi lavora lì. Grazie Chiara, davvero, ma grazie per la tua risposta. Buona giornata. Mario da Genova. Sì. Ciao Mario. Ciao. Dovresti spegnere la radio per cortesia. Aspetta. Adesso forse c'hai l'auricolare. Allora Mario, dimmi. Mi fermo, sono in macchina, mi fermo. No, ma ti capisco perfettamente, Mario. Avevo bisogno di capire solo se vuoi sentire un altro indizio, se vuoi dare una risposta. Sì, perché sono nel vuoto più totale. Allora sentiamo il quarto indizio. Eccolo qua, da Enrico Ruggeri. Le ragazze a 40 anni, amanti dell'amore, che hanno conosciuto tempo fa, ne conservano il sapore, vogliono cambiare, e la paura di sbagliare le allontana dall'immensità, dove porterebbe il cuore. Mancano 5 minuti alla soluzione del mistero. Mario, eccolo qui, era Enrico Ruggeri, le ragazze di 40 anni. Mi arrendo. Ti arrendi, no. Così, bandiera bianca. Bandiera bianca, avrei detto qualcosa di quello che hanno detto i precedenti. Guarda, ma tipo su Berlusconi e il caso Ruby, questo dicevi. Sì, è troppo. Allora, è arrivato un messaggio interessante, perché probabilmente è un ascoltatore o un'ascoltatrice che mi segue da molto tempo, perché dice, è che tu Gallarini non tocchi mai la politica italiana nei quiz. Ed è vero, di solito è difficile che la risposta sia legata alla politica. E Mario, quindi cosa ti devo salutare? Vi ringrazio. C'è il sole a Genova almeno? Bellissima. E allora goditela proprio nel vero senso della parola. Grazie Mario, buona giornata. Alberto dalla provincia di Modena. Buongiorno. Ciao Alberto, buongiorno a te. Prima di tutto volevo chiedere una cosa, come mai sul sito non si trova l'indizio chiedevo? Torna da settimana prossima. Ah no, perché guardando il sito non risultava, comunque. È vero, torna la settimana prossima, torna. Va bene, grazie. Dunque, io avrei pensato a una notizia che ho sentito di una concorrente, credo si chiamasse Cora, del Grande Fratello tedesco, che ha fatto l'ennesimo intervento chirurgico ed è finita male. Non posso dire niente, sai che non posso commentare. D'accordo, Alberto, questa sennò... era la mia risposta. Grazie però della tua risposta. Grazie. Bravo, grazie, bravo, perché quando mettete insieme le cose in modo così intelligente, nel senso che mettere insieme a volte non è mica facile, siete particolarmente scaltri, questo mi fa solo piacere. E Federico c'è da Parma, giusto? Federico? Sì, ciao, esattamente. Allora... Federico. È dura oggi, È dura, dici? Dici sì. Che è così dura, Federico? Non lo so. Io non lo so se è dura. Secondo è me no. Di quel che sembra. Secondo me no, è molto più facile di quello che sembra. Decisamente. Ascolta, però io ancora non ho l'idea, quindi ti chiedo l'ultimo indizio. Penso è vero, è proprio l'ultimo indizio. Il quinto indizio per 100 euro arriva da Zucchero. Eccolo lì, era Zucchero con Madre Dolcissima. Credo che sia finito anche il tempo. Allora, Federico. Sì, ascolta, la notizia della Kidman di prima. Ha detto la presenza, ha detto il personaggio o la notizia? Hanno detto la notizia e tu vorresti dire il personaggio. Io dico il personaggio a questo punto. Hai visto che non era poi così difficile, perché infatti abbiamo il vincitore. Ma chi sarà fra i due? Ovvero tra Federico di Parma, hai visto, hai detto che era tanto difficile, invece poi ci sei arrivato in qualche modo, oppure Leonardo che aveva dato la notizia, aveva detto della notizia invece. Federico, secondo te chi ha vinto dei due? Forse merita più lui perché l'ha detto per primo. No, si merita più lui nel senso che la risposta era la notizia. Nicole Kidman diventa mamma grazie a un utero in affitto. Grazie però Federico. Niente, ciao, buona giornata, ciao, grazie. Leonardo, ciao. Ci sei arrivato bene, bravo, fisico bestiale, perché lei vuole mantenere il suo fisico bestiale, appunto. Something Stupid perché la canzone era cantata insieme a Nicole Kidman con Rob Lee. quello te l'ha fatto capire io e te, perché già Nannini più o meno ha avuto la stessa cosa, ovvero l'utero era suo, però madre oltre i 40 anni, le ragazze di 40 anni è chiaro, e Madre Dolcissima. Grazie, ciao Leonardo, complimenti. 300 euro per te da spendere in libri. Grazie a Giorgio De Luca in redazione, a Viola Bottone in assistenza e a Peter Bescapè in regia. E a voi buona domenica da Stefano Gallarini, a domenica prossima.